Baby K Marrakesh. Sì. Oro in vista, cristal nel bicchiere. Egoista e tu che ne sai di me? Non lo sai che impegno è dovere di un re. Mettere il suo regno anche prima di sé. E non un cambio, baby, e lo sapevi già. Sono Django quando torna in libertà. La verità è che se tu stai male, sto male anch'io. Però perché cercare di cambiare i piani di Dio? Ricordo io e te, la prima volta andammo sopra e tu ti fingevi sciolta. Mi ricordo te vestita solo di pelle d'oca. Ora che vorresti dirmi come ci si comporta? E non cambio mai, però in realtà cambio sempre, è il mio sangue ormai. Anche quando cambio pelle, che ribelle, ora ribolle, mi dai del verme. L'amore è un germe, non se ne esce indenne. Non cambierò mai, non cambierò mai. Siamo solo questi e non sai più cosa cerchi. E tu non cambierai mai. Sono solo una, ma vorresti la luna. Non cambierò mai, non cambierò mai. Mi hanno detto che la vita è breve, già, quindi dovrei godermi ogni giorno o fare quello che conviene. Il sogno e realtà qua non possono esistere insieme. La mia strada, quella più complicata, quando rientro a casa la figlia meno brava. Ormai è ora o mai, la sfida è la mia piaga, la stessa che mi appaga. Avrei dovuto finire tutti gli studi, andare ai piani alti, accontentare gli altri, guardare il mondo da dietro una scrivania, accettare una vita buona che non sento mia mamma. Avrei voluto farti fiera, fare carriera, invece ho scelto di essere vera. Quando cambierai, scritto col rossetto sullo specchio, ma già lo sai. Non cambierò mai, non cambierò mai. Siamo solo questi e non sai più cosa cerchi. E tu non cambierai mai. Sono solo una, ma vorresti la luna. Non cambierò mai, non cambierò mai. Anche se il resto non ha senso, vivere a metà, restare per sperare che uno di noi cambierà. Puoi chiederlo allo specchio, tanto la risposta la sai. Quando cambierai, probabile mai. Non cambierò mai, siamo solo.